sì. No, perché sto usando. Sto usando il Galaxy, e sono 100. Sì, 100 watt, dai. Capito. Invece mi adesso, come siamo in cosa è più bassa come potenza di amplificazione? Chiaro. Allora, aspetta appena. Ok. Vediamo un po'. Ok. Ok. Distorge la modulazione adesso? Appena strappa, eh? Appena. Ok. Vediamo un po'. Ok. E così com'è adesso? Guarda a vedere. Lo sei uscito? Ho detto che per me va bene. Adesso va bene, come adesso? Dipende da come parti tra. Se a volte va dai picchi, quando va dai picchi di modulazione va a strappare un po'. Ok, aspetta a vedere. Allora. Ok. Invece così è normale. Così alla grande. Ok, va bene allora. Va bene, rete power zero. Ok, perfetto. Passate in FM, passate. Via. Così va meglio. Ok. Ok. Ci sono, sono di nuovo qua, dai. Via, fino, avanti. Perché ho risolto forse qualche problemino di odore. Beh, questi video aiutano tanto, eh. A voglia. Sì. Ma io morno, so. Veramente d'aiuto, perché c'è gente che non capisce molto di noi e ci aiutano, quindi è così. Vai Gianni. Gappa, comunque per me c'è qualche anomalia in questa radio, a chi non è possibile. Perché Gianni, non senti bene? E stamattina no, allora loro mi ascoltano bene, ma io li ascolto male, li ascolto tipo tutti gracchianti e strano, devo muovere un po' il fine corse e l'aggiusto un po', però se parla tipo Franco per esempio, magari lui è vicino e lo sento bene, se parla tipo Gavino a volte lo sento bene e a volte lo sento basso. Allora, siccome tu hai quella radio leggermente fuori frequenza e dovresti utilizzare il clarifier per poter sentire bene entrambi, quello si può utilizzare quando si è in due, quando si è in tre già c'è un problemino. Kappa, infatti a livello di segnale sono buoni tutti e due, anche a volte a voce, però tipo se passo in AM, è un altro... hanno un'altra modulazione, un'altra voce, nel senso che io li sento un bel bene a tutti e due. Perché la M in quella radio ha tutto un altro circuito dall'FM, l'FM è un circuito a parte, quindi dai, vuole vita già, però in trasmissione non ha nulla, in trasmissione è una bomba, vuole vita solo la parte della ricezione, ma è solo questioni di bobine variabili, niente di che. E va bene, quindi è solo questione di... te l'avrei detto anche che bobine sono, però deve avere cacciavite plastica, non conduttore, e va fatto proprio una regolazione. Non lo so, vai Franco, te riprendo subito. Vabbè. Piano piano, è naturale che la modulazione cambia dalla M all'FM, è naturale, e rimane diversa. Però diciamo che sono più o meno comprensibili tutti e due. Sì, quello sì, però vi sento più forte in AM. Si tende più forte in AM, ma sarà un mistero, sarà una befana che si è lì a Druganavasso a Cuddu. Sbaglio, non c'è la casa dell'antenna. Ui. Col Clarif prova a mettere una regola appena appena, cioè entrambi, cerca di capire entrambi. E Xavi, allora proviamo a sabotare. Sia quando parlava Franco che quando parla Calvino, forse magari c'è questa piccola riscontranza tra di voi. Martino, gli arrivo 9.20, gli arrivo, con 100 watt di potenza. No, ma non è possibile, ma allora, a parte che ieri notte lo stesso abbiamo provato e io avevo quasi un kilowatt e avevo lo stesso segnale di Calvino. E oggi gli arrivo, a me mi sta dando le BV 131, 100 watt mi sta dando, e gli arrivo 9.20. No, è impossibile, poi in FM, tu anche con 5 watt dovresti arrivare 9.30 a lui. A fondo scala. Mi arriva lui a fondo scala. A radio sudata, con mezzo watt la rifaccia l'antenna. E allora, c'è qualche cosa che non va in quella radio. C'è te lo so dicendo che non lo so, adesso ho messo chi su calibrate l'SVR a 7 l'ho messo a 10, 7-10. Arriva il mio SMITER. E niente, però poi se lo spengo dovrebbe essere uguale, nel senso che dovrebbe le stazionarie non finne a chi c'è scritto 0 e 02 e sono 02, non sono neanche né a 04 e né di più. Non lo so. Cosa ti segna a 10 già? Quando apro l'interruttore calibrato, metto SVR in alto, no, in call, in call, e segna 7. Se muovo il calibrate lo abbasso o lo diminuisco. Tipo adesso per esempio mettiamolo a metà. E sono con il calibrate acceso e il call. Se metto SV sale a 0. Buongiorno. Allora, calibrit, tu devi portarlo, te lo trovo l'altra volta. Tu metti la levetta in cal, non in SVR, no? Tu la metti in cal, accendi il calibrit e lo porti dove c'hai la scritta 7. Dove c'è scritto SVR, lo porti dove c'è la scritta 7. Lì c'è quella sotto, nella striscia rossa di sotto c'è quella sorta di tacchetto un po' più grande, lo porti lì, poi sempre con la portante schiacciata metti il tastino in SVR, capito? Quindi allora schiacci la portante, schiacciato la portante con il tastino sollevato in SVR e calibrate. Sì, risulta a 0. Se adesso invece abbasso l'interruttore SVR e lo metto a cool, va all'inizio del fondo scala dove c'è scritto set. Una cosa strana. Ascolta Gianni, ascolta a me. Allora, tu devi mettere il tasto, la levetta, mettila sul callo adesso, ok? Non ti ho capito, Gaffi. Ho detto metti la levetta del callo, la levetta, mettila sul callo, ok? È messa così su SVR. No, su CAL devi metterla, non su SVR, mettila su CAL. Su CAL mi segna 4, dove c'è la scritta SVR. Allora, adesso col calibrit, gira a rotella e lo porti dove c'è scritto 7 la lancetta, vai. Quelle dove c'è la scritta 7, se voglio va anche più avanti. No, devi lasciarla dove c'è la scritta 7. Adesso metti in SVR e guarda quanto ti dà. E segna, quando la metto come tutto in SVR, neanche l'uno copre. E allora SVR non ne hai, quello lì va utilizzato così, capito? Quindi porti il calibre, porti la stanghella, interruttore dove c'è scritto CAL, metti calibrate, lo porti dove c'è la scritta set e poi vai in SVR e lì ti dice la lettura reale che tu hai delle stazionarie. Come è fatta? Adesso tu prendi, spegni il calibrate, spegnilo proprio, portalo a 1, lo spegni e guarda quanto ti sta dando di potenza. No, c'è qualcosa che non va, che un bel gusto è meglio rusignare, no? Casignare bene. Tipo che stai parlando e poi non ti sento più. Franco, mi è mancata la radio. No, non è niente, Gabi, non ti è mancato niente. Io mi sono spostato un attimino in coso, mi sono spostato al 40. E allora a Franco che ti ha avuto l'antenna in terra il 40, dai, non c'è niente già. Non lo so, so Guzuru di... che non va bene, mi gira il coglione. Ma cos'è che non va bene, dimmi, non va bene la ricezione? Esatto, non va bene la ricezione, avanti entusiasta, non è gioco. Però non capisco bagosa, non lo so, ieri si sentiva bene, oggi no, deve scaldare questa radio, però io ho come l'impressione, come hai detto Tino, che è un po' fuori frequenza, vuoi riallineata in ricezione. Allora, eccomi qua. Tutti qua. Con questa mi senti meglio? Eia, certo. Perfetto, nessunissimo problema, deve essere solo preso e regolato qualche bobina variabile in quella radio, basta, ma quella radio non ha nulla, quella radio non ha niente. Sì, Gavi, ho capito, però non funziona come deve funzionare, anche se l'orecchio, come ha detto Tino, devi fare l'orecchio, ma l'orecchio, da che è sordo che non intendi tutto un diguglio, non si intende. Allora devi andare al Torino. E allora, se no da negosmino con un ragno, lo sai come mette la vasa, tipo zuppa di bambino. Ho capito, ma con questa mi senti meglio? Con questa qua mi senti meglio? Sì. Perfetto. Allora, lasciamo perdere la radio mia, che potrebbe essere anche una differenza di polarizzazione dell'antenna, perché ancora stavo usando un'antenna cornuta, quindi potrebbe essere anche una differenza d'antenna. Adesso con questa qua mi senti bene, e se io a 27.104? Gaffa. Perfetto, vai Franco. Come sarebbe 27.104? Perché lui dice che si sposta, che la sposta col corso e ci sente meglio, capito? Ah, capito. Una strana. Fra, magari come era ferma, vuole riallineata, vuole dai in ricezione, ma non ha nulla, in confronto all'altra che è un apporto, non va nulla, la radio è perfetta, la radio è bella. Sì. E vabbè, andrà bene. Cosa devo dire? Claudio, mi intendi? Claudio, adesso mi senti? Sono ancora in subuglio? Lo senti in denna, Claudio. L'ho sentito in una frequenza, dice che non mi copiava. Lo sentito una frequenza, dicevo mi copiava. E va bene, e va bene. Vediamo se mi copia così. Io sono in basso, fra, però copio tutti, io copio tutti, eh. Io sono in basso, però copio tutti. Va bene, va bene, va bene. Non è quello che volevo dirti. Sì. Io sono in basso, però qua sento tutti. E oioia. Vabbè. Bella tornata pure oggi. Non ti piace? Ma manco non hai figli? Sì. A me manda bene. Tu non ne vado dentro casa, Deva. Allora, ma carica pure chi? Se no è un guaio, se no è un guaio voce. Allora, perché poi si smaterializza la notte e tocca sta a niente, come te cose, come te la befana, stare a luci e canto per me. Pane e castagna. Ma che? Comunque il microfono sta andando bene, perché come gli ho messo quelle viti deve essere che rimane stabile la batteria, non si muovi. Deve essere che rimane e ripigliava lo vallino. Riprendeva il vallino ieri riprendeva quel microfono. Yes, yes. Ça va bien, ça va bien. Oh yeah. Beh signori, ancora. Ma ora è? È un vecchissimo. Questo giorno meno 20, 42, dai, 43. Tu qui ce l'aperitivo, altro che presto, ma siete zitto. Piglia l'aperitivo, piglia. Aiù, poni la gaibuniglia e la carriola e comincia a preparare che cosa. Ancora la carriola, sì, tu, bubu. E allora, così la prendi e la sposti dove vuoi, si fa il vento, hai pulci e si fa il fendeva, hai pulci. Se la mania è proprio cavuri, chissà. E allora, se la giuvisto una Eddie, la giuvisto. Ma che, no, figli, a stare soltanto a prendere questo diretto elettrosaldata e a bruciarla e a cominciare così, da bui, benemine Colomeo. Allora, va bene, va bene. Invece poi da Tino, Tino ha fumato grande salsiccia e ogni tanto se ne cuoce una della graviglia. Ma che? Tino, com'è, com'è? Che aroma gli hai dato? Mirto? Lascia rufà, fra. Oh gnagna, qua tutto tace la vattorra. E cade il mondo da un oblong, ti sposti un po'. Chi ci aveva la no? Però che non c'è nulla. Beh, spegniamolo, va. La radio grande le abbiamo spente. Non per passare dalla Befana ai radiomanni, guru cubo. No, se ne basta, no, che la Befana. Passare qua con un tiro. Mi pare che ne hai una sotto a casa tua, Milorida e Gobba. Non c'è una in casa, Buru, che è Milorida, ma è fatto il Buru Ranni a dire la Befana. Davvero, allora tanti auguri, chi sei la padrona di casa, meno carrego la padrona di casa, che se no già lo sai di fare i bei più bianchi di viso. No, non è lei, è la sorella che fa gli anni, gliela conosce Antonella. Beh, tu ci sei i colpi. Oh Gaffi, la bisciglia di Guru Gannavastro e Guru Cuburu di Baglia, come te chi si di Gosu, che trattano i papuri ben in terra. Vi rovano in faccia da voi, crocro. Te lo dà di netto, vi ho parlato, fra. Va bene, va bene. Oh, non ho finito un attimino di fare, Eva. Porca la miseria, chiamata, ma non se ne comprende nulla, non se ne comprende nulla. Vai, fra. E poi dicono che non aveva, e ti vuole reazione all'Eva. Ma anche sono malati a capo. Basta contare i dubbi e tutti quanti le condotte, che si mandronazzi, che non so altri. Ma se uno di Sassari dice che mi sembra in comune, non so che niente, dice che ci sono lampende che vai in mare, ci sono lampende, che no, i vaccini sono pieni. A chi si scudi li leva in mare, no, si scudi li leva in mare, stanno i scudi pure da mare, però in Chicina. Io non ne so proprio. Cioè, cosa il capo le fende che cabanova, le fende da padre a padrone le fende, in lugna rugo, tanto mai non riesce neanche a bloccarla a che azienda. Ladri, ladri. Ladri autorizzati, come te so l'Enere, come te so tutti. Come te l'Enere, come te so tutti, ladri. Capita leve in mare, zicudi. Anche zicudi è in mare. Però devi ricudirsi di fatti che vedi peti in Chicina, mi. Quanti di io. Vai già. No, la stavo seguendo l'altro giorno quella storia, adesso non mi ricordo se è nella zona dell'Oristanese o dov'è. Praticamente c'era una diga che era piena d'acqua, siccome avevano paura, ossia che con le piogge che stava facendo potesse esplodere oppure travasani, e allora hanno aperto le dighe e hanno buttato non so quanti milioni di litri di acqua al secondo a scaricare a mare, perché tanto dice che la piena la teneva piena la diga. E quindi vede la bulimica che al posto di buttarla in mare potevano fare dei vasi di raccolta e che quindi non l'avrebbero sprecata, perché prima erano con il disagio che non viraeva, da buia fateva e veniva druppo e se l'hanno gittata a mare, e quindi non si negavano i beti, non si negava beti. Tipo a Sassari hanno tolto le restrizioni e penso che il vaccino sia pieno, però il discorso è come hai detto tu, è inutile che tu sapureggi una gamara d'aria con un buco e la bui la bompi e le frasi che hanno un altro luogo e si taganta si drappa e siamo sempre appunto a capo. Così è, purtroppo, e cosa vuoi fare? Comandano loro, Lizzini, comandamenti. Il comune se ne è caricato di tutto, se ne è caricato e non ha fatto più nulla. E se ne sono mangiati, pensavate la canna di caliente. Ui, comunque a Babu tengo bene a tutti e due, sarà? Perché io ho cambiato polarizzazione d'antenna, già. Io ho cambiato polarizzazione d'antenna, io sono la verticale adesso. Ah, che t'hai bigliato rugoso, t'hai bigliato l'aperitivo. Mi sto bevendo una Tuborg, fra. Mi sto bevendo una Tuborg, una birra, oggi birra, Oggi birra, niente vino rosso, oggi birra Tuborg, fresca, bella. No, non bevo niente io. Nulla. Era cosa bimbi una barricata, ma però non ne voglio, no. No, birretta, del faticante, fra, niente vino nero. A chi sennò no, birra. Già ci sta bene a quest'ora, adesso tra un po', tra 5-10 minuti metto, ci sono, ieri mia moglie ha preso due polletti belli e li mettiamo, stamattina gli ho messo i peperoni dentro. I peperoni, la giabetti, tutti quanti vedi bolli rubevaroni e cuciti e te li pongo in forro. Oggi pollo arrosto. Ah, c'è arrosto di che fa chi si. Grazie lo fuoco, lo barbecue. E poi c'è arrosto. Ehi fra, ma non va giù pensato, già va giù pensato, però dai, te li pongo in forro e ciccia, so buoni non attessi. Gli metto un po' d'olio d'oliva nella pelle, già escono buoni, e il rosmarino, un bel po' di rosmarino, già esce buono, con i peperoni, piglia un sorribono. Di brutto! Sì. Ma lo credo io, che ce ne vuole, in ogni modo che ce ne vuole, un bollo, in ogni modo che non va è sempre buono. Il bollo è buono, pure la pizzaiola. E allora? L'unica maniera da dire che è buono, beh, a me piace, io mangio un bel pollo. Sì. Petti di pollo alla pizzaiola, pollo, anche petti di pollo arrosto, petti di pollo arrosto, con l'olio d'oliva buono, poi quando è quasi pronto li metti in una in una sorta di coso, di tegamino, ma anche in alluminio, gli metti la cipolla, se c'è la cipolla mangi pollo arrosto e cipolla, buona lì due, poco un poco di maionese e due andenti, no, cipolla arrosto. Io di chi si bolla riti, boh, mi rimangio una mitaia, azzura, e niente, e va bene così, e tra un po' lo mettiamo a cucinare, sì, sì, avanti Tino. Sì, sì, sì, va bene, allora, sto parlando con un amico che già ci sta ascoltando, però effettivamente non ha tutti i turni, io non so il ragionamento che... o cosa stava facendo Gianni per quanto riguarda la calibrazione delle SW2R delle stazionarie praticamente. Se lui segna 04, non è 04, è 4, 4 è, sono già stazionarie. Non è a stazionarie, ti dì l'amico a pigliare invece di telefonati a entrare in radio. 0404, lui ha un rosmetro ad aghi incrociati, a 04, non 4, 04, non supera l'1, capito? Quindi stazionaria non ne ha, stazionaria non ne ha, 04, non ha neanche 1 e 1, quindi va bene così, ottimo, ottimo, ottimo, ottimo, lui ha solo... il difetto di quell'antenna lì, che polarizzazione inversa, quell'antenna è sorda, basta, perché adesso mi sta ascoltando bene ed è... adesso sono con la Graziulia, però con l'altra radio ero con la Cornuta e lui non mi ascoltava, è il difetto delle Game Master, polarizzazione inversa, antenna sorda, oppure coppia male. Classico difetto di quell'antenna, e va bene così. Comunque stavamo parlando di pollo con i peperoni arrosto, Tino. Oh Gavi, Edo ha detto 4, no 04, ha detto 4, e pagisci un micio che ha scelto 04, classico. E adesso l'SMIT è salito a 60. Oh già, quanto erano le SVR, 04 o 4? No, 02 segna l'antenna che sale dove c'è scritto reflect, e invece dove ci sono la potenza adesso da 50 è salito a 60. Ci arriva a uno al lago, a uno ci arriva? No, non ci arriva a uno, perché non ci arriva, c'è scritto 0 e 02, 04 e poi via dicendo. 02, claro, addirittura ha passato come sta asciugando. Ma se mi fa vedere da sopra non comprendiamo allora. Lo strumento ad ago incrociato, dille che lo strumento ad ago incrociato, la misura te la dà l'incrocio, la curva te lo dà, non la punta dello strumento. Eia, 02, cla, no 4, mi ha mandato la fotografia, 02, c'ha 1, 1 e mezzo, 2, arriva a 3. Capito, 02, mi ha mandato la foto, è 02, non arriva, ti segna anche il mezzo a 1 e 1, a 1 non ci arriva, è 02. Mi ha mandato la foto, a 3 non arrivi, a 3 a fondo scala quel rosmetro, è a 02, neanche 1 e 1. Perché c'ha 1, 1 e mezzo, 2, 2 e mezzo, perché poi va a mezze misure quello lì. Boh, io non so, ho inteso 4, mi sono consultato, ho detto, boh, se fa la calibrazione, le segna 4, c'è l'antenna in corto. Però se è 0,2 andava così. Il fatto è che non riceve, perché se io a lui lo ricevo in questo passaggio S9, Edo a me non mi intendi, ok? V'è un problema, perché la ricezione ce l'ho, automaticamente c'ho anche la trasmissione. Quindi se mi intendi tu, che sei più in basso, Tino va bene, non fa testo, e Franco che mi sente fortissimo, mi deve sentire anche lui, basso ma mi deve sentire, invece non intende nulla. Sotto lo senti? Sì, aspetta che c'è Claudio già. Ma infatti glielo ho detto, o è il cavo o è l'antenna, o è il cavo o è l'antenna, ma secondo me è più il cavo dell'antenna, è più il cavo dell'antenna. detto prendite anche un 58, però fallo onda intera e vedrai che ti risolvi il problema, perché lui la ricezione ce l'ha, ma io poco fa stavo trasmettendo con un'antenna cornuta tagliata per la 27 MHz, capito? E niente, quindi mi sentiva male, a Franco lo sentiva bene, e Franco a me mi sentiva bene che ha un'antenna in alluminio. Quindi il problema cos'è? L'antenna. È proprio il problema della Game Master, che quando tu inverti il senso di polarità, quando tu con la Game Master prendi hai un altro interlocutore che trasmette invece di orizzontale in verticale, ti fa quel problema lì. Infatti in banda amatoriale, io ebbe da che soglia, no, non si va. Vabbè dai, continuate, intanto a me non mi sente Gianni Sapei, mi fa vedere da sopra e a me mi si viene i bibirizzi. Ok, datele una mano se potete, perché sennò fate solo casino. Ciao Claudio. Ciao Fra. Cazzo, ascolta a te, 9:20, chi si è rotato in chiave, vi ho fatto girare un baracchino sotto sopra. Ehi, vabbè. Se poi se gli ha dato non una pure la gadria. Cazzo, sei 9:20, Fra, ma è possibile che ha messo benzina, non mi intendi? Boh, non riesci a comprendere, vabbè. Se la gollinetta è paeddo, la gollinetta è pure baite, non l'ho già compreso. Va bene, ok. Buona giornata a tutti, buona epifania, dai. Rimango in quel ricco, se tanto non mi intendi, mi va bene da sopra, a me, quando mi parlano sopra, mi si girano i pibiristri. Vai, Gavino, un abbraccio a tutti. Yes, yes, buona epifania, Claudio. Non so neanche cosa dirti, comunque. La risolveremo, ma sicuramente l'antenna. Sicuramente, guarda, c'è qualcosa che non va o in antenna o nel cavo. O in antenna o nel cavo. Te l'ho spiegato il motivo, Cla. Non copiava a me bene, che io ce l'ho a 4 km ed avevo la polarizzazione invertita, quindi da sapere, quindi considera, vedi, puttana la madonna, scusate. Va bene, ciao allora Cla, ci sentiamo alle prossime, buona Befania, dai, ci sentiamo. Mica c'è stato un brecco, avanti il brecco. E Ucraina, buongiorno, 351. E la salutasi a Putin. E vabbè, comunque l'ho sentito, quindi è Ucraina, un punto per me. Sì, Ucraina, my name is Nicola. Buongiorno Italia. Forte, fai nai, ok, over. Buongiorno amico. Ucraina, ma tu parli italiano? Italina, Ucraina, speaking italiano, parli italiano? Yes, italiano, buongiorno, I copy you. Very well modulation, very well signal. Come stai, Italia? Good morning, Ucraina. My name is Golf Alpha Victor India November Oscar, Gavino, North Sardegna. Good morning, come on. Good morning, my friend, good morning. Mind Gasing United Radio 7, Hotel Golpapa. United Radio 7, Hotel Golpapa, over. Over, my friend. Signal 9, signal 89, Radio 5, my friend, come on. Okay, my friend. Thank you for contact, stay free, bye. Aspetta, se deve un casino, un attimino anche agli altri, no? È Ucraina, ascolti Tango India, November Oscar, città di Sassari. Cioè, c'è di uno sotto l'altro. Vai, prendete, vai. Che tempo? Ucraina, come on. Aspetta. Ce n'è un altro che sta chiamandomi. Sentiamo dopo, là, ciao. Niente, piano, per favore. Questo non lo senti, Avi? Quattro elementi, Aghi. Non ti capiamo, è inutile che... purtroppo non riusciamo a parlarci. 5 ok. Anche di si buccia lo vento, a te, a Putin ce l'ha, criminal, tu e Zarischi, fracassati vagattiani. Ah, basta, non ne può vedere così. Non va bene. Non ne può vedere di queste cose, che non andano bene. Parli invece, conosco solo alcuni. Ci sentiamo, vai. a più tardi se coincide. Ciao Tino, ciao Gianni e ciao Gavino. A tras prossimas. Va bene, ciao Fra, ciao ciao, ci sentiamo. E va bene così, allora ragazzi, ciao ciao. E dai che cazzo, come di voi se cazzo ne vintiende e ti rompi il cazzo di baffuzza alla fine, dica che cosa che incomprensibile. Ciao ciao, mi senti a me qua a Sardegna, Golfo e Lasinara, San P in ora ora. Attention my friend, attention my friend. Non parlo italiano. Ok, ok, non problem, non problem. Anche io non spicco la tua lingua. 7351, buona epifania. Piacere di conoscerla, grazie mille. Grazie mille a te anche. 59, mal rapport, per favore. Ciao. Mi dai il rapporto per cortesia, grazie. Bene, bene. Bene quanto, grazie. Va bene, salutoni my friend, salutoni, ciao ciao, bye bye. Lo dando, vai sì, corri cavallina che se ti segue la contadina. Franco, ma pensi che sapeva una veccia sei andato? Ma secondo me, Tino, secondo me ti conviene quel baufeno, come si chiama, quel riscaldatore, a metterlo in gas a baracca e a occuparti un uovo, forse vai prima. Senza sanghiva, magnatini e ugabu, ammazzinati lo zebedu, lo prendi nuovo tanto con la mavesseria. Lo so, sempre qui sul di lì, però alla fine sai che è nuovo, funziona bene e non è qui. Cara miseria, mi è caduta la birra. Non è che offre, no? No, già, ho già risolto, nel senso che ho visto un video e mi ha dato un aiuto. Fatemi fare un attimino una chiamata all'Ucraina. Eia. Non c'è più, sei andato, sei offeso. Non si è offeso. È a voi che non sente. Good morning, Ucraina, come on. Si è offeso perché già non ha parlato male. Si fanno un presidente che non si fa nuda. Vai, che a me non mi ha manco compreso cosa ha detto questo. Sì, allora ti ha capito, che stai maldicendo tutti quanti. Nuda l'ha detto da andare che Roberto, lo butti e Zaleschi. Vizzola, se fai nome è logico che ti capisce. Questo non parlo italiano. Mia è, dammi. Chi c'ha che sa femmina con... Mi fa due cose parlato, mi già, sa che c'ha vigliacca. Mamma mia, chi se si qua sotto l'albero della figa che la difendeva? Mamma mia. Good morning my friend. My name is Golf Alpha Victor India November Oscar Italy. My friend, come on. Hello my friend. Donetsk City. My name is Golf Alpha Victor India November Oscar. Так, ну... Good morning Alexander. Good morning Alexander. Signal 8 Radio 5 Alexander. Come on. Понял. You signal very good. How nice was 10 decibel прием. Location Alexander. Thank you. Thank you very much. Goodbye. Location, tua location, Alexander. Thank you. Alexander. Yeah. QTH, Alexander, QTH. Gutiato. Italiano? No, tuo paese, tua location, tuo stato. Ok. Tu, Germania, Ucraina, Polonia, dove? Yes, там кто-то еще зовет. Thank you for contact, Alexander. Bye bye, 73. Aspetta, attention, Alexander. Dove abiti? Tu, QTH, location. Sorry, my friend. No. Non ce lo vuole dire. Russia, Alexander, Russia. Russia, yeah. Ah, ok, Russia, ok. My rapport, per favore. Europort? Rapport, tuo 59. Radio 5, mi report, thank you. You report final plus 20 decibels. Hai sentito te? No, non ho capito, perché gli ho mandato anch'io la cosa. Rapport il tuo 59, il mio? Ой, друзья, не понимаю. Плохо. Я итальянский не знаю прием. Non lo comprendo. Ha detto che siamo 30, 30, il rapporto è 30 oltre il 9, quindi è 9 più 30. Да, вот и поговорили. Вот и поговорили. Thank you, friend. Good year, good luck, 73. Good morning, good year, my friend. Bye-bye, 73, thank you for contact, bye-bye. Thank you very much, 73. Okay, good year. 9 più 30. 9 più 30, Tino, ti piace? Oh yes. Sono qua. Maga, la Russia. È vicino, dai. Sì, vicino. Fallo in AM un collegamento così. No. In AM non fa. Vai Gianni. Cappa ragazzi, io me la vengo in Cassani, perché capivami, e la vengo indiano, a chi si noni, come si dice in inglese, where are you from, Sardegna, oppure Norzog. Comunque noi quando tu gli dici location, in inglese più o meno lo dovrebbero capire. E invece il caso di vendere le macchine, vedi si imbattini, si non imbattini, così imbatti a chi sapeme a Gurganavasi. E allora, il caso di vendere imbecille. E va bene. Oioia. Cazzo, me ne è caciuta una tazza di birra in terra, ma ci ho aumentato tutto, se no qui siamo ammazza, mi strangoleggia. E Betty, accordando? No, ho il problema, te l'ho detto, ho il problema in questo caso, a volte va, a volte no, ma qua sono messo in posizione, sembra che stia andando. Sì. Va bene. Adesso io prendo e mi sposto, mi faccio un giro nei canali alti a vedere se c'è qualcosa. No, io invece sto mollando perché devo preparare il fuoco, è mezzo andato, però devo seguire un pochino, dai. Ci sentiamo più tardi magari se coincide, ok? Eia, già sono a casa io, ho le radio accese, mi faccio un giro su a 555 a vedere se c'è qualcosa. Vai Gianni. Eia, perfetto, ciao. Eia, ciao Tino. Va bene, dai, io intanto sto guardando se trovo una mantova 5 a vedere. Andave a dopo già. Dai, sentiamo il pomeriggio. Ciao, buon pranzo quando lo farete. A dopo, ciao. Prenditi ragazzi uno che è più recente. Mica si matta rufresci la compagna già vivo io. Tanto, non è che mi chiama né più né manco, vicino viso che scende e quindi non ne so chi pinnenni, quindi me ne cavo un altro curso. Mi vendo la radio, quella là, aggiungo 150 euro e me la compagna già vivo. È una buona cosa già, una buona cosa per te. Così da voi me ne vengono tutti tanti che si ricotta e è nata la cubaccuglia con tutti i cantenni. Ciao. Ciao Tino.